piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Sabato 18 alle ore 20 e 25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Guardala, non sembra un angelo. No, sì, sì. Sì, va bene, adesso lasciatemi in pace, Non voglio sentire parlare una volta, Pina. Il Pepe. Sì. Ehi, Pina, mi raccomando, Tocca al telefono. Tra pochi istanti ci collegheremo con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'... Lei ha ragione, Filini! Ah, Filini! Io sono già in trincea! Le do la perfida Albione e 10 caffè contro uno! Italia! Italia! Ha sentito? Credo che non potrei vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Riccardelli. No! Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere... un film cecoslovacco. No! Ma con sottotitoli in tedesco. No! Ugo! Papà! No! Ugino, non fare così! E siamo arrivati al grande momento. Italia e Inghilterra si giocano in questa storica partita la qualificazione al girone finale della Coppa del Mondo. Consultazione di cronometri. Fischio dell'arbitro. Il calcio d'inizio. Scusa. Partiti. Palla da Capello a Pulici, ad Antonioni. Parte Antonioni sulla sinistra, tunnel al terzino inglese. So di gettare sale nelle ferite già doloranti di ben 14.799.000 italiani, che sono quelli che hanno ieri assistito alla partita Italia-Svezia, che in realtà non porterà l'Italia a partecipare ai mondiali di calcio. È la prima volta da 60 anni. Che purtroppo questo lutto sta percorrendo tutte le nostre coscienze. Pensate, il 48,45% del paese ieri era davanti al televisore, è stato trafitto da questo dolore incommensurabile. Ma c'era chi su questo osava anche scherzare e scherniva la passione italica per il calcio, che questa mattina giace frustrata, vilipesa e reietta, su cui pesa questo sessantennio di gloria che in realtà in un solo istante si è bruciato. Qualcuno al quartiere Strafighetto Trastevere, al Cinema Sacher, cinema di Nanni Moretti, ieri ha proiettato sadicamente la corazzata Potemkin. Ha rifatto una sorta di esorcismo per cui, come Fantozzi, non ebbe modo di seguire la partita del cuore, rinunciando alla frittatona, rinunciando al rutto libero, rinunciando alla birra ghiacciata, per colpa del perfido Guidobaldo Maria Riccardelli, che costringeva i poveri impiegati a guardare l'orrendo film come fosse una tortura, questa sorta di esorcismo ha funzionato. Ciò che è stato compiuto nel Cinema Sacher a Trastevere, dagli affiliati della setta di Nanni Moretti, in realtà ha sortito il suo effetto. Voi come la vedete? Cosa è accaduto oggi al paese? Cosa avete fatto ieri soprattutto? Pensavamo di sottoporvi a un sondaggio per vedere di quale spessore il pubblico che ci ascolta quest'ora e quanti tra quelli che ci ascoltano hanno ieri sofferto, quanti sono restati del tutto indifferenti, io manco sapevo quello che accadeva, ma questo fa parte delle mie patologie, e quanti in realtà hanno esultato perché? Per una sorta di senso di rivalsa, per una sorta di invidia radical chic per le sane passioni del popolo. 800240024, ecco il sondaggio. Per la prima volta dopo 60 anni la nazionale italiana non parteciperà ai mondiali di calcio che si terranno in Russia a giugno. Questo luttuoso evento che oggi fa piangere tutta l'Italia, quanto vi coinvolge? Siete moralmente distrutti o brindate perché del calcio non ve ne frega niente? Ieri sera, invece di vedere la partita, siete andati al cinema di Nanni Moretti a vedere la corazzata Potemkin restaurata? Bene, valutiamo il vostro grado di nazional popolarità secondo la scala Riccardelli. Chiamateci in diretta all'800240024 e diteci se 1. Ieri sera avete ignorato la TV e vi siete letti un buon libro. Se lo avete fatto, siete inesorabilmente snob, degni seguaci di Guidobaldo Maria Riccardelli. 2. Avete visto Il Grande Fratello. In questo caso siete dei classici alternativi. 3. avete visto la partita. Avete perso la voce, siete caduti in depressione e vi siete addormentati avvolti nella bandiera italiana. In questo caso siete perfettamente nazionalpopolari. Allora è chiaro quanto siete nazionalpopolari. Tre opzioni. Avete guardato la TV e avete guardato il Grande Fratello, quindi siete alternativi rispetto alla partita. Avete ignorato la TV, avete letto un buon libro, avete fatto un'attività culturale, ascoltato un concerto. Se eravate romani, siete andati a Trastevere al cinema di Nanni Moretti, oppure avete sofferto avvolti nella bandiera, avete represso il vostro sangue zampillante. Voglio saperlo. Alberto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora guardi, io non ho guardato la partita e ho lavorato al computer. Quindi la mettiamo nel gruppo 1. Sì, sono la notte fonda, ho saputo del risultato e mi sono ubriacato. Io non sopporto il calcio ai livelli al quale è arrivato. Sui 24 poi la presenza del calcio è una cosa vomitevole. Ma lei scusi, lei in questo momento sta godendo la sofferenza di 14.799.000 italiani. Sì. Sa quanto soffro io nel corso dell'anno? Beh, questo è un senso di rivalsa, poverini. Ma pensi oggi ai bar d'Italia cosa si stanno dicendo? Già, c'è gente. Aveva preparato i biglietti, aveva comprato già i biglietti in anticipo per andare in Russia. Ma guardi, il calcio è arrivato e ho giocato calcio da ragazzo, ma io oggi per quello che è diventato il calcio, nei campi di calcio. Ma lei non ha cuore, scusi Alberto, lei pensi che ci sono persone, sì, no. lo so di certo, che ancora abituati e non viaggiano da almeno 50 anni, ci andiamo in Russia, già sta riempendo le valigie con le calze di nylon e con i profumini da 4 soldi e le penne birra, pensando che la Russia è ancora quella di quei tempi. No, in cui, assolutamente. Questo pensano, erano già pronti. Già delle gite aziendali stanno organizzando. Adesso che fanno? Con una valigiata di penne biro e con una Russia che non è più quella dei tempi del socialismo reale. Veramente una delusione profonda. Vabbè, lei sadicamente è per il numero uno. Claudia, buongiorno. No, Claudio, scusi, Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Da che parte sta? Io ho discretamente sofferto ieri sera, anche se me l'aspettavo, perché ho visto la squadra veramente malmessa negli ultimi gruppo tempi. 3 ha sofferto, è stata brutta, però, è stata una... si capiva, era nell'area questa cosa, io non capisco nulla di calcio. Ma guardi, io posso anche documentare, ho dato 5-1 per la Svezia, quindi so che eravamo malmessi, proprio abbiamo fatto 3 gol le ultime 5 partite. Quindi come dicono i maestri del giornalismo, era una tragedia annunciata. Esatto. Però posso dire una cosa a tutti quelli che gioiscono, specialmente quelli che si occupano di altri sport, no, gli sport minori, e che in questo momento stanno gioendo. Ricordo a questi signori che il Conti ci rimetterà una barcata di milioni, che sono anche i nostri, venivano distribuiti agli, cioè servivano ad alimentare gli sport minori, cioè il calcio mantiene gli sport minori e adesso toccherà mettere mano al portafoglio, signori. Oh, diciamo, quelli che ne fanno tutti i fighetti oggi, io faccio la gara del ruzzolone, la corsa con la forma di formaggio, e oggi manco per voi ce ne sarà, vero? Certo, e hanno i figli che vanno a fare piscina, roba del genere, cioè, niente. Lì dovranno cacciare fuori i soldini di tasca loro. Di tasca loro, pagare. Va bene, esatto. Io invece sono vicino al suo dolore. Lamberto, buongiorno. Sì, buongiorno, telefono da Vicenza, Lamberto. Da che parte sta? Delle tre opzioni. Allora, io sono dalla parte di cui del calcio non ne importa la mazza. Sì. Di base io la TV non la guardo comunque, sì. In cui in realtà non ho scelto di non guardare la partita. Allora, numero uno, anche lei. Ecco, mettiamoci pure nel numero uno. Il mio dolore della eliminazione dell'Italia, però, dipende dal fatto che quindi l'anno prossimo non ci saranno più quelle sere in cui non c'è nessuno in giro, i ristoranti sono vuoti. Questo è vero, ha ragione. Puoi andartene in giro con serenità, trovi sempre posto. Ecco, quello è il mio dolore. Io volevo che l'Italia andasse ai mondiali. E invece purtroppo no. Guarda, le dico cosa potrà accadere. Potrà accadere come nel film di Romero, Zombie, nella sua versione più recente. Si vedranno delle creature che girano attorno agli stadi, attorno ai bar dove c'erano il maxi schermo collegato a Sky, così come zombie in cerca di qualcosa che sanno che non c'è più. Nella loro memoria primitiva si ricordavano che lì qualcosa doveva accadere, ma non accade più. Grazie Lamberto, abbiamo capito. Stefano. Pronto? Stefano. Sì, mi fa piacere, devo dire, che l'Italia non fa i mondiali, perché sentiremo quello strazio di tutti intorno, di urla, trombetti, e qua a volte Quindi lei ha questo gusto sadico per la mancanza di spettacolo popolare, ecco. No, perché a volte diventa una assuefazione il calcio, anche in generale, a parte questo qua, per esempio non puoi attraversare la strada con il verde perché piglia, ti passano tanti le moto che c'è tutta frettando la partita. Insomma, finalmente si avrà ordine e disciplina perché non c'è la partita. Beh, ma anche non questo, perché ovviamente la gente... Vabbè, si sente malissimo Stefano, si è espresso, non può dire di più. Benedetta. Pronto? L'ascolto. Buongiorno. Allora... Io ieri sera ho visto il Grande Fratello, ma non perché mi piacesse il Grande Fratello, volevo vedere cosa era successo fra Cecilia, Ignazio, niente, io nella partita scusi Benedetta, cose più importanti per lei che l'esito della partita che devono accadere al Grande Fratello. No, non era una questione di importanza, era una questione che io ero sfiduciata al massimo, nel senso che nella partita di andata in Svezia io ho decretato che non saremmo passati e quindi per non avere un dolore nel guardare, come poi si è verificato, il disastro della nostra nazionale, che comunque ritengo che un meno calcio ci faccia anche bene, perché di cose ci sono cose più importanti qui in Italia a cui pensare. Però Benedetta, ferma un attimo, perché lei è un campione importante in questo sondaggio. Lei è una che tendenzialmente avrebbe osservato la partita perché era appassionata. Aveva già colto nell'area i segni premonitori di una disfatta. Per non soffrire, avrà pensato: non si uccidono così anche i cavalli. Ha detto: guardiamo il Grande Fratello. È importante. Esatto. Quindi gli ascolti del Grande Fratello, deduco che quel bel 24,41% di italiani che l'hanno visto per non soffrire, si sono ubriacati di ragazzi. Cosa c'era ieri al Grande Fratello? Che accadeva l'importante? Ma io non lo so, perché gli altri hanno guardato il Grande Fratello invece della partita, molto probabilmente tanti l'hanno guardato perché al calcio per non soffrire, non erano interessati. Io personalmente ho preferito guardare il Grande Fratello per non soffrire a guardare una nazionale che veramente anche lei che è la voce rotta alla commozione, non possono ribaltare una situazione disastrosa come quella in Svezia. Vabbè. Abbiamo tagliato l'ultimo lembo di vitalità alla voce di questa signora. Vabbè, vi rimando la scheda così sentite bene quali sono i termini di questo sondaggio, che sta rivelando degli aspetti, dei risvolti veramente imprevisti. La visione del Grande Fratello come soluzione per non soffrire, quasi una sorta di anestesia al dolore dell'annunciata catastrofe della nostra nazionale italiana. Valutiamo il vostro grado di nazional popolarità secondo la scala Riccardelli. Chiamateci in diretta all'800240024 e diteci se 1. Ieri sera avete ignorato la TV e vi siete letti un buon libro. Se lo avete fatto, siete inesorabilmente snob, degni seguaci di Guidobaldo Maria Riccardelli. 2. Avete visto il Grande Fratello. In questo caso siete dei classici alternativi. 3. Avete visto la partita. Avete perso la voce, siete caduti in depressione e vi siete addormentati avvolti nella bandiera italiana. In questo caso, siete perfettamente nazional popolari. 800240024, misuriamo questa mattina il vostro indice di nazional popolarità. Giorgio. Sì, ciao. Da che parte si colloca? Quale allora, scelta fatta? Io nella scala sono nello zero. Nello zero. No, non esiste lo zero, uno, due o tre. No, è peggio dell'uno, diciamo, perché io ti fatto contro. L'uno. Scusi, è un gesto più plateale quello di Danni Moretti di proiettare la corazzata Potionchi. No. La sorta di rituale porta sfiga, più di così non si potrà fare. Esatto, sì, perché stufo di vedere un nazionale di vecchietti, da vecchietti, gente scarabocchiata, ipertatuata. Scarabocchiata perché c'ha dei tatuaggi. No, spieghi Giorgio. Lei sta parlando con una persona che è totalmente profano del calcio, devi spiegarmi. Ma anch'io per quello non è che sono uno. Quindi hanno i tatuaggi, giocano peggio perché hanno i tatuaggi. Ma no, perché fanno schifetto, dai, ormai sono un simbolo per i ragazzi e se non sei scarabocchiato non sei nessuno. Ah, scarabocchiato. Sì, bei calciatori di una volta che erano tutti belli, lisci e depilati, senza scarabocchi, erano magari un po' più giovani anche, sarebbe stato. Perché sono anziani, non sono nemmeno. Mamma mia, anziani nostri. Ma cosa significa anziano? Viventi, no? Quanti anni hanno di media? Non so nulla. No. Ma parliamo di Buffon che ne ha 40 e giù, piano piano tutti i senatori, dai, siamo lì. quarantenne, quindi sono vecchi e tatuati, dei vecchi tatuati, e quindi non potranno vincere. Quindi era già nell'area. Maurizio. Buongiorno. Lei da che parte sta? Io sto dalla parte di quelli che odiano il calcio, di conseguenza sono felice che sia stata eliminata la squadra, perché così perlomeno si può parlare anche di altro. Poi questi giovani moderni che appunto tutti tatuati e che... Ma giovani o vecchi? Mettetevi d'accordo, perché sono giovani o vecchi i calciatori? I calciatori sono giovani perché sono molto più giovani di me. Però vecchi in quanto anni. Calciatori? Ma non in quanto calciatori, no. Il suo collega l'ha preceduto, ha detto sono tutti vecchi tatuati, lei dice sono giovani. Beh, insomma, vecchio o giovane adesso non è importante. Vabbè, comunque sono tatuati, quindi... Che non sono dei bei esempi per i nostri giovani. Ritengo che gli altri sport ne diano di migliori. Va bene, allora, Marisa, velocemente, così chiudiamo. Marisa. Buongiorno, io seguo la radio, anche la partita, sono tifosa della Juventus, sì, e della Nazionale. E quindi? Però la Nazionale non mi entusiasma più. E vi assicuro che la radio cronaca entusiasma di suo molto più della telecronaca. Quindi comunque ha seguito la partita? Sì, una parte, no, solo una parte. E poi che ha fatto? Ho preferito tornare al mio libro. Beh, quindi allora radio. Diciamo, mettiamo mezzo punto sulla 1, mezzo punto sulla 3, perché l'ha seguita la radio a metà, non ha saputo come va a finire, è tornata al libro, è incerta. Comunque sembra assurdo, paradossale, i titoli dei giornali sembrava un lutto nazionale, il pubblico della radio se ne sbatte, anzi è contento, dice finalmente abbiamo rinunciato ad andare ai mondiali, ma vedremo un po' tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog. Valutiamo il vostro grado di nazional popolarità secondo la scala Riccardelli. Chiamateci in diretta all'800240024 e diteci se 1. Ieri sera avete ignorato la TV e vi siete letti un buon libro. Se lo avete fatto, siete inesorabilmente snob, degni seguaci di Guidobaldo Maria Riccardelli. 2. Avete visto Il Grande Fratello. In questo caso, siete dei classici alternativi. 3. Avete visto la partita. Avete perso la voce, siete caduti in depressione e vi siete addormentati avvolti nella bandiera italiana. In questo caso, siete perfettamente nazional popolari. È impressionante, imprevedibile, mi lascia sconcertato questo dato sulla qualità del pubblico che mi ascolta, però devo dire, secondo i numeri espressi dall'indicatore della scala Guidobaldo Maria Riccardelli, il nostro pubblico è un odiatore del calcio. In una percentuale di 6 volte superiore il pubblico si è espresso per una scelta alternativa, ma addirittura anche ostile alla fruizione della partita di calcio. Soltanto una minima parte ha guardato la partita in maniera parziale, in maniera non convinta, e quelli che in realtà seguono il calcio già avevano un segno di premonizione e per non soffrire e non veder soffrire hanno preferito fare altro. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dove si colloca lei nella scala Riccardelli? 3,5. Quindi ancora oltre di quelli che hanno sofferto. Ho mandato le figlie e la moglie in un'altra parte dell'appartamento, io mi sono chiuso nella sala col divano. Perché non sentissero le sue urla di dolore, per questo? Esatto. Ha detto andate via. Non alle famiglie che come soffro. Perché lei già immaginava che sarebbe accaduto questo? Beh, diciamo che era nell'aria da tempo, insomma. Quindi lei ha fatto così, vediamo se interpreto bene. Moglie, figlia come mia. Come quello che cade dal grattacielo, finché non arriva giù. Come Ettore Andromaca, bene, quando sulle mura di Troia Ettore va a morire e prende il piccolo a stianatte, lo alza, esatto. Bacia Andromaca e sa che andrà a morire, sarà trascinato col cavallo, il suo cadavere vilipeso, e lo sa già. Negli occhi di Ettore Andromaca vede già l'uomo che sta per morire, il piccolo Astianatte, mi sembra si chiami così, non ricordo bene, sì. Che ne so, roba che avevo studiato dai preti 50 anni fa, beh, insomma, qualcosa del genere. Esatto, poi sua figlia si è allontanata. Da arcitaliano ho scelto già la squadra per cui difare ai mondiali, perché da italiani poi no. Già, qual è l'alternativa? L'alternativa è Arabia Saudita o se passa la Nuova Zelanda. Bene, tutti con le bandiere dell'Arabia Saudita, così. Comunque, per sfregio. Comunque una premessa, posso fare una piccola premessa? Stiamo qua apposta. La ragazza sul treno, io ho letto il libro, il film non lo vedo. La ragazza... Grande Fratello lo lascio a chi purtroppo vede il Grande Fratello, e non c'è cosa più bella che correre presso un pallone. Lo so, l'espresso è giusto, ma se no sembra che siamo fuori del mondo. La stragrande maggioranza degli italiani ha visto la partita. Non è che siamo snob, non abbiamo strumenti genetici per seguire il calcio, ma non è colpa nostra. Nel particolare, chi parla non ha mai giocato a pallone da piccolo, perché non lo so, perché a casa non ti davano il pallone, ti regalavano il pallone, lo portavi agli amici, ti mettevano a porta che c'avevi il pallone, tutto al più, al massimo. Quindi uno viene fuori così. Eliseo, buongiorno. Buongiorno. Si esprima. Buongiorno. Io ieri sera, siccome mi sono trasferito da poco, non abbiamo ancora la TV in casa, e in realtà probabilmente non avrei guardato la partita, o forse un po' sì, un po' no. In ogni caso, ho accarezzato l'idea di ascoltarla via radio per un breve istante, ma poi non l'ho fatto, e mi sono ritrovato a leggere un vecchio Dylan Dog sulla poltrona nuova. Quindi è una posizione molto morettiana, però. Sì, abbastanza, sì. Dylan Dog, la poltrona. Esatto, e in questo senso però mi veniva con il bicchiere un po' vicino, così senza bicchiere. In ogni caso mi vengono in mente un po' gli zombie di cui parlava prima, e in qualche modo ho sentito di evocarli. Poi abbiamo sentito un certo baccano negli appartamenti vicini, e mi è giunta di nuovo coscienza del fatto che ci fosse la partita in quel momento. Esatto. Sì. E quindi lei, ha soltanto avvertito il sottofondo del dolore altrui, è come una persona nascosta nel doppio fondo del suo appartamento, che sente le grida dello sterminio delle famiglie accanto, perché magari c'è una grande rivoluzione, e stanno lì chiusi nel loro rifugio, mentre gli altri vengono scannati, in questo caso vengono uccisi dal dolore insanabile di una sconfitta così cruenta. E lei è stato lì nascosto con il suo Dylan Dog, chiuso con il suo giornalino, mette il parrocchio e il parrorecchio. Va bene, Graziano. Sì, Nicoletti. Da che parte sta? Sono dalla parte di Pistoia. Senta, io è un po' indefinibile la cosa. Io la partita. E a Pistoia guardata. Che facevate ieri sera? Io guardavo la partita con distacco e aspettando solamente il finale per vedere i nostri clown piangere. Anche lei, lei come uno cattivo. Lo dico chiaramente. Questa storia, della elezione di Tavecchio, poi nemmeno chi è Tavecchio. Ma chi è Tavecchio? Non poteva portarci... Graziano, mi spiega chi è Tavecchio? Non lo so, chi è Tavecchio? Tavecchio è presidente della federazione, quello che l'ha messo al posto di comando, lo Tito e compagnia fascista. E perché, perché non va bene Tavecchio? Per capire, me lo spieghi. Perché non il motivo è uno solo. Primo, è anziano, perché è anziano, è una persona anziana. Sì, io ho 71 anni. No, Tavecchio, anziano, lo chiamano Tavecchio perché è anziano. Ma quando uno arriva a fare quelle gaffe paurose, da presidente, e sono venuti questi negri, hanno mangiato le banane fino a ieri l'altro, oggi guardate... Vabbè, alla sua età è chiaro che ha una mentalità arcaica, anche razzista, e lo chiamano per questo Tavecchio, immagino. No, si chiama Tavecchio. Ah, di nome proprio Tavecchio? Ah, poveraccio. Tavecchio. Uno si chiama Tavecchio, poverino. Non sarà mai dalla parte dell'innovazione. Come fa uno si chiama Tavecchio? Chi arriva Tavecchio e tutti a ridere. Tavecchio proprio è praticamente quello che ha coronato tutta la questione. Quindi il colpevole è Tavecchio oggi. Ma oggi il palazzo della federazione deve essere demolito fino a sotto le fondamenta. E anche buttare il sale sulle macerie, no? Sì, sale sulle macerie. Certo. Mi è dispiaciuto che non siano andati in Russia, perché c'era una possibilità che li ingabbiassero e li mandassero in Siberia. Ma non c'è più, vedi, anche lei è rimasto ancora alle calze di nylon e alle valigie. Non c'è più quella roba lì in Russia. Perché già sa che c'erano degli italiani pronti con le valigie, con le calze in nylon, con i profumini e le penne birro, che pensando ancora ci fosse il socialismo reale, ma ormai quello è finito, quindi non c'è manco più la Siberia. No, ce ne mandano più a spaccagliaccio. No, il gulag non esiste più. Allora proprio non saprei cosa fargli fare, perché io avrei tante alternative, pulire i boschi, i fiumi, raccattare le carte per la strada. Mandarli a fare raccatta merda dei cani, così imparano, potrebbe essere un'idea, no? Ma è favoloso lei come cosa. Non lo so, l'ha detto lei, io prendo le sue labbra. Mi ha letto nel pensiero. Beh, l'ha detto, praticamente. Va bene, grazie. Questa è un'alternativa molto cruenta. Se abbiamo finito donare la linea, questa trasmissione vola come il vento, ma d'altronde affondiamo le mani nella carne viva in questo momento del malessere italiano. A tra poco. Melog. Valutiamo il vostro grado di nazional popolarità secondo la scala Riccardelli. Chiamateci in diretta all'800240024 e diteci se 1. Ieri sera avete ignorato la TV e vi siete letti un buon libro. Se lo avete fatto, siete inesorabilmente snob, degni seguaci di Guidobaldo Maria Riccardelli. 2. Avete visto Il Grande Fratello. In questo caso, siete dei classici alternativi. 3. Avete visto la partita. Avete perso la voce, siete caduti in depressione e vi siete addormentati avvolti nella bandiera italiana. In questo caso, siete perfettamente nazional popolari. 800240024, abbiamo ancora qualche minuto per collocarci nella scala Guidobaldo Riccardelli per capire qual è il vostro grado di nazional popolarità. Mi sto rendendo conto che l'animo delle persone si vede non nelle vittorie ma nelle sconfitte. In realtà solo nelle sconfitte viene fuori quel senso di astio sedimentato, sempre presente, delle persone comunque godono, amano la sofferenza altrui. E oggi c'è da soffrire per una parte cospicua degli italiani. Il 48,45% degli italiani ha visto la partita e oggi soffre. E gli altri che fanno? Ballano sul loro sepolcro. Fabio. Sì, buongiorno, salve. Ma posso chiedere chi è Guidobaldo Riccardelli? Come che? Quanti anni ha lei, scusi? Mi perdoni, 51. Ecco, non sa chi è Guidobaldo Riccardelli? Mi sfugge, mi deve perdonare. È uno dei direttori di Fantozzi che costringe gli impiegati il giorno della partita a vedere il film della corazzata Potionchi. No, lei ha delle lacune. Guardi, mi dispiace. No, Fabio, questo non è tollerabile. Guardi, ha una lacuna così grossa, le tolgo il diritto di parola. Mi scusi, non... Vabbè, Fabio, parli. Mi fanno cenno là del vetro che devo essere democratico. Però con grande dolore. Grazie. Allora, però studi, Fabio. Almeno Fantozzi, non mi può cadere su Fantozzi. No, assolutamente, anche perché ero un mito. Se non sa chi è il presidente della Repubblica, pazienza. Se non sa chi è il capo del presidente del Consiglio. Chi è il presidente della Repubblica? Tavecchio. No, dico lei prima parlava col tipo lì, non sapeva chi era Tavecchio, va anche benissimo. Se mai lo dico, ammetto la mia ignoranza. Lo dico, sono ignorante. Pensavo che Tavecchio era un soprannome, che siccome era un po' anziano nelle sue decisioni, lo chiamano Tavecchio, ma invece c'è il suo cognome vero. Bella Fabio. Voglio dire questo, io appartengo al gruppo 1A, non frega proprio assolutamente nulla. Nulla del calcio. Però sa chi è Tavecchio lei rispetto a me? Sì, lo so, perché ogni tanto inciampo in qualche notizia sportiva, quindi mi tocca leggere, soprattutto le stupidaggini che riesce a dire con l'uomo. Lei ieri come ha passato? Dico, la verità, non ho letto un libro, ho letto dopo. Nel frattempo guardavo Report, mi piace Report. Report, c'era la seconda parte dell'inchiesta sui paradisi fiscali. I paradisi fiscali, esattamente. Che ieri non è interessato a nessuno perché c'erano altri interessi. Certo, però posso dirle una cosa, Gianluca, secondo me comunque abbiamo perso anche noi. Sa in quale misura? Lei poi fa un programma sociologico, quindi queste cose le conosce molto meglio di me. Nella misura in altamente cui... scientifico, sociologico, altamente ma altamente scientifico. Certo. Sì, infatti la sua ironia, guardi, mi creda, mi fa impazzire. Però io voglio dire questo qua con un filo di serietà, che praticamente l'italiano medio, quando vince la squadra del cuore, fa innalzare il PIL, perché produce di più, perché è più contento, perché non so, fa tante cose di più l'italiano medio, cosa che io non riesco a capire, però pare sia un dato oggettivo. Quindi abbiamo perso in che senso? Che non andando alla nazionale in Russia, ahimè, il PIL si ammoscerà un po'. Quindi a questo punto è importante capire qual può essere la soluzione Viagra per questo sorta di lutto nazionale. Qualcosa ci inventeremo, che devo dirle. Grazie, no, interessante, la sua lettura è interessante. Diciamo che è una sorta, è la teoria della profezia che si autoavvera. Eravamo già convinti e conditi di un senso di sconfitta generale, che praticamente abbiamo creato le condizioni per la sconfitta. È un meccanismo molto frequente, perché tutte le persone che hanno comunque visto la partita, tutti dicevano, già sapevamo sarebbe finita male. Franco ha parlato? No, Franco allora. Franco. Cosa ha fatto lei, Franco? Ma io sono stato a Trattore Reggio di Torino, dove c'era un bellissimo concerto dell'orchestra della Filarmonica di Torino. Io tiro musica americana, Gershwin, Copland, tutta musica di autori ebrei, e questo non va, va sottolineato, è stupenda, e devo dire che non ho assolutamente rimpianto il fatto di non essere rimasto a casa a guardare la partita, e peraltro sono tifoso della nazionale, ci mancherebbe. Quindi lei, diciamo, e... una sorta di anestesia mentale, è andata a sentire della bella musica, nostalgica, in fondo anche con un certo senso di movimento, e le è piaciuto. Ma le dirò di più, che contrariamente a quello che magari mi sarebbe potuto succedere 20 anni fa, in cui avrei comunque prescelto il concerto rispetto alla partita, nella giornata di ieri proprio il dubbio non l'ho avuto, perché questa nazionale che riflette così bene lo specchio del paese, di incapacità, di gente sbagliata in posti sbagliati. E quindi, guarda, lei ha visto una metafora dell'eclissi del paese, quindi ha fatto una scelta, come quelle battute yiddish, è andato a sentirsi la musica di Gershwin. Va bene, mi sembra perfetta come scelta. È stato anche fortunato che aveva a disposizione il concerto. Graziano da Ancona. Buongiorno. Cosa ha fatto lei? Ho guardato la partita, ho tifato, ma normalmente, poi ero molto, sarei stato contento se vinceva, hanno perduto, ma non farei un dramma, è sempre uno sport, è una partita, è un qualcosa che la vita non è fatta, parte. La vita è fatta anche di sconfitte, quindi lei, Graziano, finora guardi che è il primo però che fa parte del 58%, 48% degli italiani, quasi il 49%, metà degli italiani, nessuno ha chiamato e detto sì, ho visto la partita, abbiamo perso, amen, non succede nulla. Alessandro. Buongiorno dottor Nicoletti. Come ha passato la sua serata? Allora, io sono indeciso tra la fascia 1 e fascia 3, gli spiego subito. Spieghi. Ieri sera ero in compagnia, in dolce compagnia, della moglie di uno dei 14 milioni di italiani che hanno visto la partita. No, non sono 14, sono 48, ah sì, 14 milioni, sì, quasi 15. E spero che a giugno ci sia almeno una partita... tipo. Quindi lei giocava, lei, diciamo, la sua speranza di lussuria adulterina era basata sul fatto che vincesse la nazionale. Sì, a giugno avevo delle serate libere anch'io. C'era tutta l'estate a disposizione. Appunto, spero ci sia qualche partita. Era tutto un tromba-tromba. Tromba. Brasile-Argentina almeno. Ma quando, mi spieghi bene, quando uno compie adulterio con la moglie di un tifoso che sta guardando la partita, cosa tiene? Sul comodino una radiolina accesa per seguire comunque... No, alle 10 già doveva andare via, per essere a casa entro le 10 e mezza. Sì, ma durante la partita voi stavate consumando? Beh sì, certo, ma la partita non me ne fregava assolutamente sì, niente. Sì, ma per monitorare comunque il legittimo marito, che magari sospendendo la partita, quello tornava, usciva dalla... E lui cosa rimane? Bloccato davanti alla televisione? No, quello non ce l'avevo neanche pensato. No, la televisione era completamente spenta. No, faccia capire. Lei, la moglie esce di casa e dice stasera vado a cena dalle amiche, cosa si inventa? Ah, questo non lo so. Vabbè, una scusa, tanto tu guardi la partita. Lui sta a casa con la frittatona, con la birra. No, mi scusi, è uscito con gli amici al bar, la partita al bar, il maxi schermo. E tutti cornuti naturalmente. Non so io. Il minimo. Loro stanno al maxi schermo. Lei, nella sua alcova... Passavano così a giugno, avevo delle giornate libere. Nella sua alcova la trafiggeva con il dardo della passione. Sì. Ma nel frattempo la moglie stava ad ascoltare la partita per monitorare i movimenti del marito oppure no? No, assolutamente. Però alle 10 a un certo punto tira giù la saracinesca e torna a casa. Certo. E questo non accadrà più perché la nazionale ha perso. Appunto, è un problema. A meno che non ci sia qualche partita bella, tipo Argentina-Brasile, Brasile-Germania, che possa tirare... Non si sa se vale una trombata. Appunto, però. È questo il problema. Vabbè, si accorgerà che alla fine anche l'esercizio solitario avrà dei suoi lati per lei, in fondo interessanti. Vabbè, il nostro sondaggio è stato interessantissimo, importantissimo. Ha vinto naturalmente la fetta di italiani che ha in odio quelli che giocano a calcio, seguono le partite di calcio. Molti, come l'ultimo nostro ascoltatore, hanno un subdolo interesse personale perché molti italiani siano davanti alla partita e speravano in una trasferta che avrebbe senz'altro riempito di gioia le loro copulazioni illegittime. Alla prossima.